ogni volta è anche così, è una cosa allucinante. Non lo so, devi chiedere a lui. Devi chiedere a lui, non lo so. Dovete chiamarlo per telefono, quello che glielo chiedi. Allora lui c'ha la scheda come la tua, ma tale è uguale, non c'è nient'altro. Vabbè, da lui ne puoi fare uno, qual è il problema? Ma tu magari lo puoi sistemare, che cosa ne sai? Da lui ne puoi fare uno, non costa niente. Metti che d'accordo con lui, se lui se lo va, bene, se no pazienza. Se mi sembra che il 2, se non mi ricordo male. Che il 2, se non mi ricordo male, il Gipsy 2 è quello che c'aveva lui, con quell'effetto lì. E ho fatto la stessa indicazione tua, la stessa cazzata, entrare, e dopodiché in pratica sentivo solo il strano di come si chiama, di muffa, hai capito? E sento che stava, lo sentivo tutto, però non sentivo l'avvento, a un certo punto è partito il finale, non usciva più in trasmissione. No, la recensione non va perché c'è stato non so che cosa, una specie di corto o qualcosa del genere. E vabbè, quello potrebbe anche darsi che si può anche riprendere. C'è un transistor che comanda come si chiama, un stabilizzatore di tensione in pratica. Hai capito, l'ha cambiato. Cioè, se usciva la bassa frequenza non si sente niente, proprio niente. Allora è partito il stabilizzatore di tensione, è stato sul 0,5 se non mi ricordo male, o è stato sul 0,8. È quello che comanda la piazza, cioè infatti comanda dallo chassis che c'è sopra, comanda tutto il circuito. E va dove lo devi fare questa roba qui, che non puoi fare niente, non puoi fare proprio niente, c'è di pensare a... Secondo me, poi non lo so, quindi tu se stai facendo un altro discorso, però non, secondo me quegli apparecchi là son destinati proprio quando le accendi dopo tanto tempo a crepparsi, a rasura, perché non funziona la ventola, l'ha capito, non funziona nulla. E sto pigliando, cioè sto vedendo quei due Mofeng portati di Gaussai, 16 canali. Quanto l'ho pagato io? 40 euro, di più di meno. Sono due programmati, li ho fatti programmare, quindi sono 16 canali, sono 8 normali e 8 LPT. E vabbè, allora non so cosa dirti, io ho il reso mio che ho e non lo vendo, perché l'ho pagato e quindi nuovo, già lo sai, di quattro in banda, quindi me lo tengo io, non c'ho altro da vendere. No, 23 canali non voglio neanche io. Non ti preoccupare, non c'ho niente. Chi è che vuole entrare avanti? Ho capito che sei Giuseppe, io non sono Spalviero, ma sono Alessio, non sono Spalviero io. Ho detto, sei Giuseppe in Alghero, ho capito, non Spalviero, in Alghero, ho capito adesso. Ciao Giuseppe, salutori, si sente un basso, la verità è che sei un bel basso, ma la verità come audio proprio sei messo male. E c'è la modulazione proprio strana, tutta, posso dire, non lo so, ma è strana la modulazione, non è chiara, mi capisco. Vabbè, ok, non c'è problema. E guarda, ho avuto un apparecchio, basta, non ne voglio più. Mi è rimasto qua dal 2009, anzi con il 4000 mi è rimasto un mio apparecchio, la verità. E poi c'è un 87 da sistemare, non mi è rimasto altro. Tutta la roba, tutto buttato, non me ne frega niente, a me io roba vecchia non ne voglio... Ah, sì, mi fa cosa meglio, se ti interessa faccio dei VHF marini. Portati, sono gli AESO FT 411 e quindi mi sono matti qui, io due, quello solo quello mi dai 500 euro, se no manco si muove la casa. È nuovo, nuovo, nuovo con la scatola. E poi c'è per te, io ce n'è uno che fa tutto uno, quindi te lo sto dicendo. Se vuoi che si muova la casa, io ho il Renzo, nuovo, nuovo, nuovo, mi dai 500 euro in contanti e io ti do l'apparato in scatolato. Tutto completo. Istruzioni, tutto. Non manca niente, manca un graffio c'è. 7, 12, 12, anche 14 puoi alimentare, no? No, no. Te lo segna il voltaggio nell'apparato. Già lo so che te lo fare, già lo so, ma mi sento. TMR 446 801 25. Canale 7 in pratica. E siamo tutti là. TMR 7. Tranquillo, non ti vedi, non è che ti devi preoccupare, arriva a 90 euro di Ussi, con quel blondi che gli ho dato io, 10 milliwatt. Uno avere un blondi, 10 milliwatt, l'altro avere un Baofeng, 5 watt, il discorso è diverso, con l'antenna esterna, cambia la situazione, tutta un'altra cosa, hai capito? Io parlo tranquillamente da qua, a Trentino, e ho il Trentino pure, non solo l'altro. Quindi, a parte la zona di Alghero, il Melo, eccetera, eccetera, arrivo benissimo. Poi, non lo so, vedi tu. Se tu che hai fatto la scelta, ti piacciono gli apparecchi, di qui, io di solito parlo sempre in PMR. E tra oggi, guarda, sto parlando del 27, perché tra l'altro lo sta. Di solito sono sempre in PMR parlando, tutti i giorni. Perché siamo tutti i giorni lì, siamo 8, 9 persone, a volte siamo solo 5, dipende. Ognuno, si sceglie di diventare sia lì, sia anche qua, non è che cambia le cose la verità, comunque sia. Però è bello, non lo so, dipende da te. Se te non ti piace è un discorso diverso, basta, non cambia niente. A me mi interessa più che altro usare tutte le frequenze, non una sola. Perché di solito parlo sempre in incognito, che merda, quindi oggi la verità parlo di, sto parlando del 27, però si vede c'è gente qua. Io ce l'ho tenuta esterna, anche con lui la vivi tranquillamente, anche con l'altra la macchina, e c'ero io che l'ho regalata a Giuseppe Leoncino, tranquillamente arrivavo a Trentino, no? Se addirittura, hai capito? Quindi, tu immagini se ti piace l'altra la macchina, so fare tutto in casa tua. Antonello Rius arrivava tranquillamente col portatile qua fino in via Torino, arrivava al circolo col portatile. Fino a si mette l'antenna esterna lì a Muros, fin dove arrivi. No, non ce n'è. Io ce l'ho bianca, ce l'ho visto la verticale, poi c'ho l'altra antenna. Poi vabbè, non c'era neanche bisogno, io una volta che sono uscito con questa panicchia qui, ho usato l'antenna della macchina che aveva regalato Giuseppe Leoncino. La Diamond, agganciata alla staffetta, agganciata alla tappa del palo, e usciva benissimo, fino a Trentino arrivavo tranquilla, figurati, fondo scala. Secondo me arrivi più forte di là che qua, poi vediamo, basta fare la prova, non c'è tanto, non costa niente. Io ce li ho, e se io funzionano tutti, poi non lo so, dipende da chi c'è, e allora che accedi tu, questo non lo so. ho visto, l'ho fatto qui arrivare, l'ho visto anch'io. Il pacco ce l'ho solamente io, ce l'ho. Di cui di un Baufink. E ce me l'ha detto anche lui. Dice non ha più fatto il mio altro di nato. Hai capito? Comunque che se gli dice non gli vuol dire a me. No, già la mamma è in pausa, aspetta un secondo. C'è nessuno? Avanti, chi è? Il boia. Giuse. Che basso mi sei. Mettiti il potere della buona, se non ti sento per niente, Giuse. Per niente Giuseppe, niente. Chi è l'altro che stavo parlando? Adesso ti sento, saluta Gianni Capellino di Muros, che è 27. Lo so, ma saluta Gianni Capellino 2. Ok, vabbè, aspetta che è mollo. Giuseppe Leoncino era. Da parecchio. Un anno è morta, fidati tu. Oh, iaia. Che c'è Giuseppe, dimmi. Chi è Finocchio? Ah, Mario. Già, ti stai ascoltando Mario, non ti preoccupare. Aspetta un secondo che sto parlando con capo 2 di muro, sono in 27, aspetta. Sentito Maza? Gianni? Sì, già ho capito, aspetta, sai quello che quello che sto cucinando 2 minuti, se no mi piglia fuoco tutto, 2 minuti. Poi ti richiamo. Gianni, non essere un controllo per l'ofesia. Giocare qua, Gianni abbiamo da fare è giocherellare con le radio, abbiamo bisogno di giocare in PMR. Va bene, dai, sono 9:10, anzi, 9:05 ce l'ho io, sì, 9:05. Vado a pappare, già, ti saluto, ci sentiamo domani, io ci sono entrato un po' in ritardo perché avevo un po' di cosette da fare, capito, e niente, sto sistemando casa, quindi avevo necessità di staccare un po', mania Covid vecchia. Ok, dai, ci aggiorniamo. Sinuso. È così deve essere, anche il mio è male in uso, ha capito? Se è quello grigio è male in uso, ha capito? Ho già. Ciao Antonetto, vado a mangiare, dai. Ho terminato troppo tardi oggi di fare queste cose, ma è necessario perché se no mi tolgo piedi. Dai, ci sentiamo domani ragazzi. Ciao Antonello, ciao Gianni, ciao a chiunque è in ascolto qua su Canale 10. Bye bye. Io, ciao, non c'è problema, sto mangiando ancora, sto cenando. Ci devo fare un po' là. Gappa, ciao ciao ciao. Ci vuole quello dell'asino, ci vuole. Non c'è così, quello dell'asino ci vuole. È l'unico modo, ti passa tutto. Giacus, scatole basse. E non te ne sognati. E c'è una riga, che non ve la mai amata, sarà mio 10 anni. Non so neanche se è vivo, se è morto, mai amata. E meglio così, sono contento, mia, te l'ho mangiato io, adesso mi... Ad avere una bella bevetta, con calma. Tutti che è chiaro. Così digerisco un pochettino. Ho mangiato gratinato, la pesce, adesso digerisco piano piano. E io adesso vado a casa, lavoro, vado a casa. Anzi, casa, senza fare niente, senza fare niente a casa, il discorso è quello. Aspetta che sto mangiando, cioè ti richiamo fra poco, là. E ha gelato. E non c'è problema. Bevendo un attimo di birra a digerire. Il pesce, il gratinato, il virus B. E basta metterci un pochettino di roba piccante in mezzo, vero che cambia la questione. E il gelato. Beh, devi piano un po' di sale, per forza che ti crepa, scusa. Ma vuol dire che sei, non so, hai problemi. Cosa vuol dire che... A me non mi fa niente di olive, la verità. Salate o non salate non fanno niente a me. Ma è vero, stai bene. A un certo punto. Hai veramente bene. E c'è vivo Paolino, c'è un attore. Vivo, vivo tranquillo, voglio vedere tutti i giorni via tempio io. Ehi, già me ne ricordo già. Ma è via tempio comunque, lo vedo tutti i giorni. Al bar che c'è, cosa posso dire, vicino alla pizzeria Vittoria. No, con via Massiglia. Sì che me lo ricordo voi già. Hai visto, vabbè, pazienza, devo dire che io. Già non lo ricordo infatti, non lo so, la verità non lo so, non si chiede a lui, e già lo so infatti, già c'ho le valvole, ne ho 8 di valvole di VC1.1, figurati tu, tutte conservate, sì, quello già ho capito, per quello non c'è problema, con quello fatto in PMR già lo sai, già di una valvole ancora, e ci mancherebbe. Sì, c'è anche 15. Quando vuoi ci andiamo a trovare, non c'è problema. Io da tutti i giorni, figurati tu. No, no, di qui non io più. Tu non me ne fate più niente dei baracchini. Tutti i reati, tutti la mondezza. Chi ce l'ha? Chi c'è che sono niente? E me già me lo ricordo quello. Non è Gesuino, Gaffino di Mancati, che cosa diversa. Lino Gabbiano era. Ho capito. Io di quelli non c'ho più niente di quelli. C'è la lica, gli ho fatti gula. Bello, giusto. Sì, è Esatto, io con la mia macchina arrivo fino a Trentino, fino a Trentino. Anzi, anche oltre, solo l'altro. Quindi sono sempre in PMR io, mattina e sera. Hai capito? Per parlare con le persone che conosco, vabbè, ne conosco tutte la verità, sia quelli di Trentino sia quelli che parlano con me. Sono tutti uguali, sono sempre roba di 27, capito? Però parliamo in PMR. Tutto lì. Sì, è stato un bambino di Bastentino, io te l'ho anche detto l'altra volta. Dicendo, se vuoi usare la luce, siamo pazienza, no? Non mi cambia la vita a me, la verità. Noi siamo tutti lì, l'hai visto. Tutto il giorno, c'è sempre gente, non è che sia qua, sia 27, non è che siamo per forza lì, no? Siamo qua anche là, il discorso è quello. Guarda che attorno al baracco sta... quando parlava da casa sua, parlava tranquillamente con me e anche con Claudio, all'inizio arrivavo anche via Torino, figurati tu, con quei blondi, i portatili, quelli che gli ho regalato io, non sta Antonello, non è che non lo sapeva, lo sa, e vuol dire sta lavorando, cosa ne so, non ha avuto problemi di famiglia, cosa ne so, comunque sia, io... di solito scrivo una volta a settimana, adesso boh, non l'ho più sentito. Sì, parecchi cavaliano, non ti preoccupare. Non vi ci ho iniziato, so. E parlavi con Muro. Quindi è passato a fare la prova, qual è il problema? Non costa niente a fare la prova. Basta il sentino, arriva veloce. Figurati. Basta fare la prova con un'antenna di macchina. E tu vai direttamente a Mulos e facciamo la prova, qual è il problema? Non costa nulla. Se arriva bene, solo se la piglia in culo a un certo punto. Quando vuoi non c'è problema. Sì? Una cosa del genere, sì. Tutti ce l'hanno, che c'è? Ce l'hanno tutti, non è che è la greppa nostra, non c'è veramente la greppa. Ce l'hanno tutti, e tutti fanno lì. Vabbè, io sono sempre l'aria, lo sai, quindi... ho portato anche a pezzo dietro le portate, agganciato la, come si dice, la cintura dei calzoni e l'uso, me l'ho portato a pezzo. Quando tengo in gomma, tranquillamente la pedalina, vado tranquillamente con tutto stato e quindi non c'è nessun problema. Quindi figurati tu se c'è un livello di, come ti posso dire, del 90% di ricezione, di trasmissione. Se no, non me l'avrei messo a fiato a un certo punto, scusa. Me l'ho portato anche in macchina, come stasera. Stasera me l'ho portato in macchina. Importante, ho parlato con Bersiano, ho parlato con qualcun altro. Quindi qual è il problema? C'è sempre gente, grazie a Dio. È sempre pieno quella frequenza lì. Non ci sono solamente io, la verità. Quindi l'ho fondata io, ma non sono solamente io. C'è anche altra gente, quindi tutto lì. Sono sempre a casa, già lo sai. A meno che non esco, vado in giro, a bermi la birra, quello che è, se no già sono a casa. Meglio così, sono contento. Va bene. Ok, ti lascio, va che vado a quel camion adesso. Domani mattina, se quello va a iniziare, come vuoi tu. Quando vuoi. Ciao. 7:20. E gli occhi, ciao, alle prossime. Ciao.